dicevamo, e non solo oggi, nel corso di queste mattinate andremo sempre a incontrare gli altri che ci conoscono così bene, perché magari in Italia vivono, l'Italia la raccontano, contribuiscono più di tutti a creare l'immagine, la credibilità, o a volte a minarla, a distruggerla, di questo paese. Sono i corrispondenti stranieri e do il benvenuto, ben ritrovato al primo in studio con noi. Welcome Aaron Mains. Buongiorno. Aaron Mains è corrispondente in Italia della Wall Street Journal, freelance dell'ANSA, e anche svolge un'attività peculiare, molto interessante e particolare, quella di traduttore. Cosa hai tradotto in particolare recentemente? Ho lavorato su una serie di libri, quelli più di nota sono alcuni libri dell'Oriana Falacci, il libro dei sogni di Federico Fellini per Rizzoli e vari altri libri su Benetton, ma adesso su Ferrero, su Campagnolo, un po' le aziende che sono conosciute all'estero. Cos'è questo diario dei sogni di Federico Fellini? Ogni tanto scopriamo delle cose che ci segnalate voi, cioè da osservatori esterni siete più attenti al nostro patrimonio culturale a volte di quanto lo siamo noi italiani. È vero, è buffo, ma è poco conosciuto. Federico Fellini ha tenuto per quasi tutta la sua vita un diario nel quale scriveva regolarmente degli appunti sui suoi sogni, sui suoi pensieri, le sue fantasie, e li illustrava anche, cioè disegnava delle immagini da accompagnare le sue scritture. Per tutta la vita? Praticamente sì, per tantissimi anni, adesso non mi ricordo esattamente da quando a quando, ma per praticamente tutta la sua vita adulta sì. Quindi momenti di grande gloria, ma anche momenti disperati? Sì, sì, un po' tutto, che spaziavano da problemi suoi sentimentali, problemi suoi personali della vita, fino a problemi ovviamente con le prese e con i film che stessi facendo. E che idea ti sei fatto dell'uomo? Tu hai avuto accesso forse all'anima più inesplorata di Federico Fellini, quella che nemmeno coloro che l'hanno seguito e ammirato per una vita hanno avuto la possibilità di conoscere. È vero soprattutto perché il diario alla sua morte fu diviso e non era stato riunito fino a pochi anni fa, quindi in molti non conoscevano neanche l'esistenza di questo, e da una finestra sull'anima di una persona veramente particolare, di un'anima gentile lo definirei. Ma che tipo di diffusione ha avuto negli Stati Uniti? Ma è stato abbastanza ben lanciato il libro, è impegnativo appunto perché è stata una vita come mole proprio. Sì, come mole sono diversi chili di libro, anche devo dire perché Rizzoli fece un'ottima scelta di metterlo tutto in grande format in modo che si potesse vedere bene l'immagine, leggere bene la sua scrittura a mano. Ma quando tu poi negli Stati Uniti dici ai tuoi amici, no, che vivi in Italia, innanzitutto da quanto tempo? E allora, da tanto tempo, dal 95. Ci sarà una data? Sì, dal 95. Beh, ci è stato un po' di avanti e indietro, in un certo senso. Mia moglie è italiana, ci siamo spostati per un po' a New York, poi siamo tornati. Quindi è un po' difficile calcolare, ma diciamo dal 95. Quando dici appunto nei tuoi avanti e indietro, nei tuoi viaggi inevitabili, racconti di vivere qui, ti commiserano o ti invidiano? Come primo impatto? La prima cosa che dicono è sempre beato te. Sempre. Comunque, devo dire, vedono sempre l'Italia come un luogo da sogno. Lo vedono forse con un occhio, forse con un occhio un po' feliniano, cioè non vedono la realtà italiana, o cioè, raramente. Al beato te tu glielo lasci credere o cominci a smentire, a raccontare? Ma no, io amo l'Italia ormai, mi sento anche in parte italiano, e quindi non posso negare che ci sono dei aspetti fantastici qui. Certo, quando entriamo nei discorsi più complicati che trattano la vita reale, quotidiano, che non è più pizza mandolino e tuffi nel Mediterraneo, ma diventa invece i problemi che tutti noi affrontiamo, cerco di fargli capire che ci sono dei problemi. E in generale voi corrispondenti, soprattutto quelli stanziali, nel senso che avete sposato un italiano, un'italiana, avete fatto famiglia, conoscete molto bene anche quelli che sono le problematiche della vita quotidiana. Spesso però i pezzi vi vengono commissionati dagli editor, diciamo, sì, dai quelli, sì, che noi in Italia chiameremmo capiservizi o responsabili degli esteri, che chiedono cose che a volte non ci sono, perché sono fondate sull'idea che loro hanno del paese nel quale operate. E cos'è che i tuoi editor, i capi servizio, per chiamarli così, ti hanno chiesto di bizzarro? Cioè, cos'è che fai fatica ancora oggi, quando chiami il Wall Street Journal, a far capire dell'Italia? Cioè, qualcosa che loro sono convinti ci sia e invece proprio non c'è. Ma allora, secondo me la grande difficoltà nasce sempre dalla loro volontà di rappresentare il bello dell'Italia e di disinteressarsi di ciò che è il difficoltoso. Ci sono delle eccezioni, il New York Times fa per esempio qualche bel pezzo sull'Italia. Io noto una certa bipolarità nel trattare l'Italia a livello di stampa internazionale, cioè gli articoli o lodano l'Italia, tout court, oppure la stroncano. Per dire, Berlusconi è stato un momento in cui tutti quanti hanno preso a calci l'Italia per un po', e poi passano da quello a parlare della bella vita, a parlare della vita in spiaggia, a parlare di quanto si mangia bene, a parlare dei generali temi, diciamo, culinari e culturali, senza una copertura di mezzo. C'è una scarsa attenzione alle sfumature, alla complessità. Ora, nel 2001, dopo l'attentato alle Torri Gemelle, la reazione statunitense che tutti conosciamo, Afghanistan, Iraq, e hanno cominciato a spopolare gadget. Io allora vivevo in Canada con la bandiera canadese. Chrétien allora era il primo ministro in Canada, era un liberale, scuola Trudeau, e non aveva avallato l'intervento in Iraq. Perché la bandiera canadese? Queste bandiere erano kit, spillette, zaini da vendere agli americani, a voi statunitensi, perché andando in giro per il mondo potessimo mettere la bandiera. Questo mi ha fatto pensare, volevo chiederti, tu sei mai stato imbarazzato di essere americano? Sì, ma tante volte. Non so se sono stato, non so se imbarazzato è la parola proprio. C'è da dire che soprattutto dopo il 2011 fu un po' difficile viaggiare, girare. C'era sempre, molti erano tesi, sia gli americani che i non. Mi ricordo una volta in corso Buenos Aires fu attaccato proprio da un musulmano, poverino, ubriaco, non senza... Ma come faceva a sapere che tu eri statunitense, aveva la bandiera canadese? è un americano in disguise. I radioascoltatori non mi vedono, però sono abbastanza non italiano, insomma, alto, calvo, un po' con il piglio americano in generale. Ma io non direi, insomma... magari mi vestivo diversamente all'epoca, un po' meno italiano. Imbarazzato sì, sempre poi quando si tratta di parlare di temi che scottano, per esempio quando parli con, ma sempre in vena dell'11 settembre, quando parli di musulmani e ti chiedono sulle renditions, per dire, o delle, sì, cose sporche che hanno fatto e che fanno ancora tuttora il governo americano. Aaron, grazie per il tuo tempo e naturalmente ci ritroveremo in uno di questi incontri con i corrispondenti stranieri. Noi tra pochissimo andremo a parlare di sanità.